picchi negativi. Dopo una potenza dice che è normale che ci avrebbe picchi negativi. Ma a livello di assorbimento parlo. Cioè il voltmetro di segna 13,8 quando parlo scende sui 12. Ma no, diciamo la pressione è un altro discorso, non parlo di picchi negativi di modulazione. No. Per quello è un problema. Quelli sono picchi positivi. Quello te lo fa quando fa in sotto modulazione, se non mi ricordo male. Sono un po' all'indirizzo io. No, sono un ingegnere, non lo devo rifare, ho di sud di continente, proprio di questo fatto qua, vedo malissimo, perché questo tipo di apparati non sono andati ad andare in M, vanno in armare laterali o in FM, per cui quel modulatore non è adatto, proprio per certi tipi di potenze a modulare, per cui va in negativo. Sì, è verissimo, perché mi ricordo, quando l'avevo preso, modulazione in AM non ne fa niente, però cos'era? Lo scontento qual era? Che quando lo sapevo che riusciva bene in AM, sta di modulazione, tutti positivi e tutte fatte queste cose, hai il tecno che quando fai lo studio di stare con la modulazione sopra minimo, il processore se non lo usi anche meglio. Sì, no, il processore infatti è sconsigliato usarlo in mano laterale, però un problema, diciamo, questi tipi di apparati sono anche per altre cose, diciamo, lo dicono anche loro, no? Sono degli adattamenti per lavorare su questo tipo di frequenze, comunque sono quelli in assoluto che si adattano meglio, ho detto da chi se ne intende, il 44 e il 14, addirittura il 44 è anche meglio del 14, per certi versi. Sì, ma il 44 era quello simile al... qual è? Quello che fa anche la banda su, che è 2 metri. Le tappe sono più o meno simili, si dà forse qualche parte più 44, c'è la tornata dell'antenna incorporato su canali e cosa c'è più, e c'è il voice che ti riflette il canale, c'è una voce che ti dice su che frequenza sì. Ah, sì, che era grigio lo stesso, dello stesso colore lo fa così, sotto il membrano, così. No, ma ce n'era uno uguale, molto simile al 14, qual era che aveva sia questa banda qua e poi da 2 metri. Sì, è stata, forse. Sì, è stata, ha detto bene. Quello era un affarone, me lo stavano dando in 8 anni fa, 8 anni fa, lo stavano dando per una fesseria. Io, no, ma che cosa fatto su questo? Ah, un peccato. No, diciamo questo tipo di apparati ti sei cazzo di tiene, infatti se tu vai a comprare un usato tiene ancora il mercato, considerato da un vecchiotto oppure, cioè che non è neanche recente, cioè tu sono gli apparati più lunghi, magari non li paghi quanto paghi il 44 o 140. No, ma infatti, guarda, a me da poco ci ha fissato uno che mi fa da poco sarà un anno e fa. E mi ha detto, e tanto non lo sta più usando, anche se 250, 300 euro al massimo, anche tanto più di fogliono si guarda. Fatto guarda, quando l'ho preso io l'ho pagato, non pare che ho preso l'ho preso nel 95, questo. Ho comprato nuovo, l'ho pagato, non pare che ho subito. Ma preferisco tenermelo lì fermo, ogni tanto se mi viene voglia lo accendo, faccio la chiacchierata e poi lo accendo, rimane lì. Fatto fastidio non me ne va, non me ne prende fa. Anche in attanto rimane che di chirurgia, ma mi resta lì, se credo che lo accendo, se non funziona bene. Sì, è così, infatti, tanto non ti fanno del ricordo povero questo di lì, per cui meglio tenerlo lì, ogni tanto lo accendo. Come sono arrivati negli anni 60, stanno diventando mercenari. No, parliamo dei tanner, cioè io dico, i tanner stanno superando come costo di mercato invece 60, cioè tra una cosa rarissima a trovarlo. Mamma mia, le mie 60 lo stesso, io questo io faccio anche le mie 60, i tanner lo stesso, cazzo, i tanner erano svegli, quelli erano due microfoni. Ma quello è quello che, ma quando ho iniziato internet, c'è la balla di gente, chissà quanta spalla, ma sai chissà quanta gente c'è che ha le cantine piene di questa roba, e magari tiene tutto lì buttata, ma non è che cosa me ne frega, ne tengo tutto quanto tu. E ci sono anche lo stesso, un vetro CD, e a due di quasi 40, glielo chiedo, non ci sa nulla, neanche a parlare, se me li tengo qua, posso armarti, se mi sveglio la mattina e voglio attaccare, ce l'ho. No, ma è così, è vero, guarda, io mi sono pentito, ho venduto un President Jackson, quello 226 canali, tutto nera, usciva, era una bomba, io lo usavo con questo microfono qua, perché all'epoca te l'ho fatta, mi amo lui perché all'epoca della mia transata, perché l'ho fatta da sua. Non avevo saputo fare sempre lì, forse non ha fatto il suo e l'altro, ma tu non mi fai me lo sento, me lo sono sentito clamorosamente. Ah, la causerò mai, c'è il problema, però da una parte lo stanno tirando da nuovo logo, faccio io, me lo stanno tirando da un'altra parte, ma volendo, poi ci sono anche altri baracchini, ma vedete quanto faccio questo che sto utilizzando con l'Ottanta, c'è quanta gente mi ha chiesto, se uno non vengo, o chi chiusi, però dico, cosa me ne fa, poi quando c'è un anno non ne ho. Esattamente. Sempre la stessa cosa, perché tu magari nel momento dici ma che cosa mi fa, ma sì, vado via, dentro di un mese ti sei detto cazzo, l'avrei avuto dentro cazzo, perché tu dici guarda, io ho fatto un 1131, ho fatto un utilizzato sempre minimo, anche mio, ma ho fatto meno due, ho un IPC 48 o 49, un IPC 49 tutte. Una lampa in trotto, però dentro qualche cassetta dovrei avere anche un cosa era quello della IPA che l'altro quello contatti di 548 SI, forse la dovrebbe essere un grigio per gli interruttori nella fanti. Un po' il marmellata che quel marchio sarà lui, così via tra 30 anni di pizza. E io l'ho preso su eBay un paio di baracchini di 3 o 4 portati, diciamo, però si può dire, e più mi ha gustato, c'era anche un coso, no? La faglietta uguale, molto meno, il baracchino ma funziona, e più mi ha regalato un M25. Senta, il M25 era quello della Zetaggio? Sì, con la Zetaggio uguale alla M24, però in più c'ha il controllo dei toni, sono identici. Cazzo, l'avevo provato una volta con questo apparato, ma lo sai come usciva fuori di microfono, era qualcosa di eccezionale. Sì, no, ma è l'M25, adesso c'è anche un altro baracchino, aspetta, è fissa su un Intec, un Multicom, diciamo, nuova generazione moderna come baracchino rispetto alla pace. L'unico microfono che riesce a far andare bene è l'M25, abbiamo provato decine dei microfoni, ma quello che si è adatta più di tutti è quello lì. Mentre le pace, qualunque cosa lì che funziona, adesso puoi dire questo è il canale, questo si utilizza. Se metto l'M24 funziona lo stesso, gli metto un altro microfono, l'M93 funziona con tutti bene. No, ma sente bene, ma poi il 25 non lo ricordo, spingeva e si adattava bene a tutti gli apparati. Vabbè, dammi un secondino che vado fuori a spegnere le rette, perché ho sentito il rumore strano, vedo che un gatto stava provando a entrare e ha lanciato la testa. Vabbè, no, ma non muoio, adesso è andato un attimino, se dobbiamo uscire, vabbè, cioè, se così domani ci sentiamo un altro momento, io sono andato un attimino, perché sì, c'era una pausa prima di uscire, dai, hanno modo di sentirci, per con piacere, dai, ciao. Va bene, nessun problema, vabbè. Buona sirella, buon tutto, mi si resta altro, non più tardi magari domani, dico che arrivederci, ciao. Ciao, buona serata, ciao.